Al di là delle frange estremiste, chiaramente da condannare perché violente, dobbiamo dire che a Torre Maura ci sono tanti rom che abitano in casa e sono assolutamente accolti e inclusi. Il problema è che i cittadini di Torre Maura non è che non vogliono i rom, non vogliono i campi rom. E la struttura del Comune di Roma è una struttura molto particolare. Dobbiamo considerare che a Roma ci sono campi di vecchia generazione, che sono quelli fatti di container, e campi di nuova generazione, che sono strutture in muratura dove sono concentrate persone rom. Questi centri di raccolta rom erano stati inaugurati da Lemanno e poi chiusi con l'inchiesta Mafia Capitale, e la sindaca invece ha deciso di riaprire un nuovo centro di raccolta rom. Quindi campi in muratura, luoghi costosissimi, se pensiamo che quella struttura per una famiglia il costo del comune è superiore ai 2.000 euro al mese. Quindi costi altissimi, nessun progetto di inclusione reale. Quindi alla base di quello che è successo a Torre Maura c'è una gravissima scelta politica di ritornare non a chiudere i campi ma a riaprire queste strutture di violazione dei diritti umani, e chiaramente c'è poi la risposta strumentalizzata sicuramente da molti della popolazione che non è che non vuole Roma, ma non vuole avere questi spazi, questi luoghi di violazione dei diritti umani sotto casa. Quindi alla base c'è una grave scelta politica fortemente sbagliata, fallimentare, che è espressione di quello che è il piano Rom della Giunta Raggi oggi in Italia. Potremmo dire che le dinamiche sono simili a quelle dell'accoglienza dei richiedenti asilo, cioè il problema sono le grandi concentrazioni in situazioni di certo non dignitose? Il problema è collocare persone su base etnica nello stesso posto, perché questo qua è un centro solamente per Rom, e questa è la colpa grave a livello di discriminazione. Altro problema è la temporaneità, è una struttura per 6 mesi, però sappiamo bene che in Italia, almeno a Roma, quando la temporaneità non è altro che l'anticamera di una lunghissima permanenza. E poi altro elemento sono i costi altissimi, una struttura che per 27 mesi costerà al Comune di Roma 1,2 milioni, quindi cifre altissime che se riconvertite per l'inclusione potrebbero sicuramente dare risultati migliori. È l'approccio emergenziale, sempre presente nella città di Roma, sicuramente oggi il ministro dell'interno di questa caratura, di questo tipo, si spinge ancora di più verso questo approccio emergenziale, che significa non risoluzione dei problemi, aggravamento delle situazioni delle singole persone, costi economici altissimi. Quale potrebbe essere invece un modello che porti anche un'integrazione, insomma un modello virtuoso? Ce ne sono diversi. Noi presenteremo lunedì prossimo in Senato il nostro rapporto annuale, dove racconteremo alla presenza di alcuni amministratori, e nello specifico delle città di Moncalieri, Sesto Fiorentino, Palermo, come queste città stanno cercando, riconvertendo soldi dalla esclusione, dalla segregazione, in soldi per l'inclusione, stanno riuscendo a chiudere e superare i campi. Questa sfida è la sfida di oggi, è una sfida assolutamente possibile, praticabile, sostenibile, e l'esperienza di queste città ce lo insegnano. E alla base della scelta che ci raccontavi sbagliata, insomma, dell'amministrazione romana, cosa c'è? Una poca conoscenza di come si approccia il tema, una poca volontà politica di risolverlo, cosa c'è? Nel caso di questa amministrazione, più che una cattiva volontà, c'è un'incompetenza, che per un amministratore equivale ad una cattiva volontà, perché un amministratore incompetente è un amministratore che non dovrebbe amministrare una città. C'è una grandissima incompetenza. Un solo dato per comprendere questa incompetenza: nella città di Roma ci sono associazioni, accademici, realtà che conoscono a fondo la questione Rom, ma non esiste a Roma un tavolo dove queste realtà possono trovare voce e mettere e diffondere i saperi che hanno acquisito. E quindi è la politica dell'uomo solo al comando, che è questa giunta che vuole rivoluzionare la città, ma in realtà non ha strumenti, non ha conoscenze, non ha capacità.